Presentiamo il risultato dell'avviso pubblico che come amministrazione comunale, Dipartimento Cultura, Ufficio Musica abbiamo deciso di mettere in campo nei mesi scorsi, un'idea che arriva prima della pandemia e che durante la pandemia è riorganizzata. Un'idea di sostegno a Bologna Città della Musica con una scelta nuova come paradigma di supporto al mondo musicale bolognese, perché in questo caso noi sosteniamo produzioni musicali, la produzione. Per me è molto importante questa scelta, perché dopo l'altra scelta innovativa che abbiamo messo in campo nell'ultimo anno, cioè le convenzioni con i locali che promuovono la musica dal vivo, con il sostegno alle produzioni musicali entriamo in una dimensione diversa dal passato come paradigma di città della musica UNESCO, cioè non solo l'idea di una città che distribuisce contenuti, che ospita grandi eventi, concerti promossi da etichette, da circuiti nazionali e internazionali, ma una città che promuove la musica come patrimonio in quanto sostiene chi la produce, chi la lavora, chi si impegna ogni giorno in una progettualità, che siano figure emergenti o figure consolidate del mondo musicale e culturale. Per noi l'importante in questo caso è la produzione. La coincidenza con la pandemia ci ha stimolato la nostra creatività, indubbiamente, e soprattutto ha stimolato la creatività degli operatori del settore che nella produzione hanno trovato uno spazio di attività anche più ampio rispetto a quello che si poteva fare solitamente. Perché, come sapete, da diversi mesi lo spettacolo dal vivo è fermo e quindi il sostegno alla produzione è stato anche un modo più resiliente per adattarsi a questa crisi, per alcuni un ritorno ad un vecchio mestiere, per altri ad uno nuovo, ma in ogni caso anche l'ampia risposta a questo bando ci ha raccontato una città, un territorio ricco di proposte e di operatori. Non ci rivolgevamo soltanto agli artisti o alle etichette, il nostro avviso pubblico era aperto a tutti, anche ai soggetti del terzo settore, le partite IVA, alle imprese. 46 sono gli operatori musicali pronti a ripartire con il nostro sostegno di 200.000 euro. Inizialmente la cifra era più bassa, ma abbiamo deciso con i fondi del Capodanno di raddoppiarla. Abbiamo rinunciato al Capodanno in Piazza Maggiore, infatti abbiamo finanziato questo bando e il bando Incredible aumentando le risorse. Sono arrivati 207 progetti, appunto provenienti da etichette, agenzie di management, terzo settore, singoli artisti dell'ampio spettro musicale cittadino, e alla fine le 46 produzioni premiate sono suddivise fra 24 proposte, sono arrivate da associazioni, 22 imprese, liberi professionisti, con contributi che vanno da 4.000 a 7.000 euro per ogni progetto. Queste sono proposte che di fatto danno un'ampia fotografia di quella che è la capacità del territorio di agire su questo fronte, e l'analogia di questo bando con il progetto Nuova Manifattura delle Arti che abbiamo promosso con il Mambo proprio durante il lockdown. In quel caso ci siamo rivolti agli artisti, giovani artisti che vivevano nell'area metropolitana bolognese. Sono arrivate centinaia di proposte, ne abbiamo scelti 12. Perché dico per analogia? Perché noi spesso in questi decenni ci siamo un po' lamentati, ci siamo guardati sempre con un po' di nostalgia alla Bologna di una volta. Beh, tutte le volte che noi facciamo un bando, devo dirvi che da parte degli artisti e dei creativi rispondono centinaia di persone. Le nostre richieste spesso che siano domiciliati nel territorio, quindi in realtà Bologna è piena di artisti, è piena di creativi, è piena di persone che lavorano in questo settore. Complessivamente sono quasi 26.000 le persone che lavorano nella cultura, tutto compreso. Il fatto è che ad ogni nostro bando, per tutti i singoli segmenti, e noi ci stiamo iniziando ad occupare dei singoli segmenti, appunto l'arte contemporanea, adesso la musica, abbiamo aperto un filone anche sull'enogastronomia, lavoriamo sul cinema e le produzioni audiovisive, quindi insieme alla regione ci stiamo strutturando filiera per filiera. Tutte le volte rispondono centinaia di persone e non sono sempre le stesse, sono spesso persone nuove. C'è una presenza e un fermento molto molto forte, e credo che questa pandemia ci abbia spinto ancora di più a mapparle. Credo che questa raccolta di dati, di informazione sia molto preziosa, perché come per ogni nostro bando, il nostro intento è quello di non solo premiare quelli che hanno dei criteri per ricevere le risorse, ma di creare una vera e propria comunità. Quindi noi vogliamo rimanere in contatto con tutti, anche quelli che non ricevono risorse, perché il nostro compito è quello di occuparci di tutto il settore e di aiutare il più possibile in questo momento.